Allora, iniziate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e salendo fino alla testa. Partite osservando come sono messe le punte dei piedi, piedi, come appoggiano i talloni, e poi man mano salite ed osservate come appoggiano i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra? Se non vi rendete conto di come siete appoggiate, provate pure a muoverlo. Potete sollevare una parte, l'altra, o premere una e l'altra, vedete che parte si muove con più facilità o di più, quale di meno. Tanto per rendervi conto. Come siete sdraiate. E poi cominciate ad osservare come siete appoggiate con tutta la colonna vertebrale partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Quindi osservate come appoggia il coccige, quanto dista da terra l'osso sacro, quanto dista l'arco lombare, come appoggiano le vertebre toraciche, come e se appoggiano le costole basse, le costole alte, come è messo il collo, la testa, e infine come sono messe le due spalle. Quale spalla sentite che è più in avanti verso il soffitto e quale è più indietro verso il pavimento? E dopo che vi siete rese conto di quale è più avanti e quale è più indietro, osservate se quella che è più avanti di fatto, con un po' di consapevolezza, potete lasciarla cadere verso il pavimento e la state semplicemente tenendo anche se non ce n'è bisogno, solo così, perché non ci pensate. E di conseguenza osservate come appoggiate le due braccia, i gomiti, i polsi, le mani, le dita. E cominciate ad osservare il respiro. Innanzitutto, se state respirando o se nell'osservare gli appoggi siete rimaste un bel po' in apnea. Dopodiché osservate come respirate. Se è un respiro profondo, superficiale, con l'addome, col torace, con entrambi. Ok, ora appoggiate le mani sulla parte bassa dell'addome tra l'ombelico e il pube, più sotto l'ombelico, una a destra e una a sinistra. e cominciate a inspirare, anzi, e osservate cosa succede in quella parte quando respirate. Se potete, non intrecciate le dita, ok? Quindi solo respirate e prendete atto cosa succede. E osservate se quando inspirate riuscite a gonfiare l'addome. E man mano che respirate, osservate se quando inspirate e quindi gonfiate la pancia e le mani vengono spinte in su verso il soffitto, osservate cosa fate con la parte dietro della schiena, con la parte lombare. Vi accorgerete che potete inspirare lasciando che si gonfi sia davanti che dietro. Quindi quando inspirate lasciate che si gonfi la pancia verso il soffitto e che pian piano in un certo senso venga premuta la parte lombare contemporaneamente per terra. Ed ora piegate le gambe, tutte e due, tenendo piedi, ginocchia larghi come il bacino, col tallone sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio. E tenete sempre le mani sulla parte bassa dell'addome. E continuate ancora una volta a inspirare, tirare dentro l'aria, buttando la pancia in fuori verso il soffitto, quindi spingendo in su le mani, e contemporaneamente permettendo alla parte lombare, più o meno, di premere sul pavimento, quindi vi espandete in senso sagittale, in avanti e indietro, contemporaneamente. E poi lasciate andare. Osservate e mettete in modo di avere sì le mani appoggiate, ma in modo che i gomiti siano appoggiati a terra, le spalle morbide e la bocca morbida, e osservando se ci sono delle parti che rischiate di irrigidire mentre potete lasciarle andare. Bene, ora spostate le mani e le mettete sulle costole basse, quindi nella zona che più o meno è tra l'ombelico e la parte alta delle costole, sulle costole basse. Toccatevi il torace e sentite, non mettete le mani sul buco ma sulle costole. Ben appoggiate con tutto il palmo, tutta la mano. E questa volta inspirate e osservate cosa succede. Vi accorgerete che quando inspirate le costole basse vengono spinte verso il soffitto. e osservate cosa succede dietro, se anche dietro le costole basse si espandono verso il pavimento. Ricordatevi che le costole davanti si inseriscono sullo sterno e dietro sulle vertebre. Quindi quando muovete le costole, di fatto le muovete sia avanti, ma a meno che non inarcate la schiena, si muovono in avanti e indietro. Benissimo, e ora spostate le mani in alto tra le costole alte e le clavicole. Le clavicole sono l'osso che dalla gola va in fuori verso la spalla. Osservate se i piedi sono ben appoggiati, se tenete la bocca morbida, perché se irrigidite la bocca, irrigidite il collo e i muscoli fino a metà schiena. Ed ora quando inspirate, osservate se la parte alta del torace si muove verso il soffitto. Molto spesso negli uomini o nelle persone anziane le costole alte rimangono ferme, bloccate. Osservate se tutte le dita dei piedi sono ben appoggiate a terra o se sono sollevate, quindi tutto il piede preme, è adagiato, lascia la pressione sul pavimento. Perfetto, lasciate andare, vi riposate, allungate le gambe, le braccia. Provate a piegare le gambe nel modo nel quale si fa di solito, quindi tirare sulle gambe dritte, piegandole dritte. Siete con le gambe allungate, piegate le gambe dritte, cioè tirandole su naturalmente verso di voi, e poi riallungatele e osservate cosa succede nella schiena, cosa succede nelle anche e nella colonna vertebrale. Quindi continuate a piegare e allungare le gambe. Insieme o una alla volta, come preferite. E osservate la schiena, la colonna vertebrale, l'arco lombare, le anche. Adesso quando siete con le gambe allungate, cominciate col ruotare il piede destro in fuori, in modo che il bordo esterno del piede tocchi il pavimento, e poi strisciando il piede sul bordo esterno verso i glutei, arrivate con la gamba piegata, il ginocchio in fuori verso il pavimento, e poi da quella posizione appoggiate la pianta del piede e puntate il ginocchio al soffitto. E da lì, per riallungare la gamba, muovete il ginocchio destro in fuori verso il pavimento, strisciate il bordo esterno del piede allungando la gamba verso il basso e arrivate con la gamba allungata. E fate la stessa cosa una volta con una gamba e una volta con l'altra. Quindi potete adesso iniziare a ruotare il piede sinistro in fuori, strisciare il bordo esterno del piede sul pavimento, arrivare con la gamba piegata al ginocchio che cade verso il pavimento, appuntare il ginocchio al soffitto ed arrivare con la pianta del piede appoggiata a terra. In altre parole, invece che piegare le gambe come si è sempre fatto abitualmente come persone adulte, fatelo come di fatto lo fanno i bambini, passando dall'esterno. E anche quando allungate la gamba, ricordatevi di passare dall'esterno, quindi la gamba è piegata, ginocchio puntato al soffitto, muovete il ginocchio in fuori tipo rana e allungate la gamba e continuate a piegare e allungare le gambe una dopo l'altra in questo modo, osservando com'è adesso la reazione nella schiena, nella parte lombare, nelle anche nel bacino, in modo da sentire la differenza tra il modo di prima e quello di adesso. Se non la sentite, ricominciate di nuovo a piegare le gambe come si è sempre fatto da adulti e poi fatelo un po' di volte così da bambini e sentite la differenza tra i due modi. Osservando se continuate a respirare. Se tenete gli occhi sbarrati, potete anche lavorare ad occhi chiusi. Ok, adesso rimanete con le gambe piegate, piedi e ginocchia larghi come il bacino. Mettete la mano destra sulla parte destra della pancia in basso, più o meno tra l'ombelico e l'imboccatura di un'eventuale tasca, gomito appoggiato a terra, e quando inspirate, questa volta inspirate gonfiando, buttando fuori, buttando l'aria verso il lato destro e basso. Quindi inspirate e spingete la parte destra bassa tra l'ombelico e la tasca della pancia verso il soffitto. E poi lasciate andare e continuate. Lasciate andare, mettete la mano sinistra e fate la stessa cosa, inspirando, buttando la parte bassa sinistra dell'addome in fuori verso il soffitto. Quindi quando inspirate l'aria va a finire da quella parte. Ok, ora mettete entrambe le mani sulla parte bassa dell'addome e quando inspirate buttate fuori la pancia spingendo le mani, e non solo, inspirate e spingete la pancia verso il soffitto e in basso verso il pavimento pelvico. Il pavimento pelvico è quella parte che va dal pube all'ischio destro, al coccige all'ischio sinistro. C'è questa specie di quadrato e osservate se quando inspirate riuscite a fare scendere l'aria anche nel pavimento pelvico, pensando di spingerla mentre buttate in basso l'aria inspirando anche nei genitali. E osservate se riuscite a stare morbide o se irrigidite, contraete i glutei. Molto spesso, commentano gli insegnanti, nella tradizione del movimento occidentale le persone rimangono tutte contratte nei glutei, non lasciano andare la parte bassa. Per un'educazione sbagliata, che ha paura del corpo. Lasciate andare, muovete un ginocchio alla volta in fuori verso il pavimento, strisciate il bordo esterno del piede corrispondente sul pavimento allungando la gamba e poi muovete l'altro ginocchio, allungate l'altra gamba, vi riposate un attimo, osservate come state appoggiate a terra. Se dopo 25 minuti c'è un po' di cambiamento nell'appoggio sul pavimento. E poi di nuovo ruotate fuori i piedi e piegate le gambe, una alla volta, piede e ginocchia larghi come il bacino, mettete la mano destra sulla parte alta destra del torace e quando inspirate gonfiate, buttate l'aria in quella parte. Respirate che siete vive. Sembra uno slogan, ma di fatto è una verità profonda. Cambiate mano, mettete la mano sinistra sulla parte alta sinistra del torace, tra le costole, tra le costole e le clavicole, e la clavicola, e di nuovo inspirate gonfiando la parte alta sinistra del torace. Bocca morbida. Osservando se ci sono delle parti che contraete, tipo qualche dito, della mano, del piede. Come tenete il collo, la testa, la bocca. Ok. Adesso mettete la mano sinistra in alto dov'è, quindi mano sinistra appoggiata sulla parte alta sinistra del torace e mano destra appoggiata sulla parte destra bassa del torace, dell'addome. Quindi mano sinistra in alto sinistra del torace, mano destra in basso verso la tasca destra sull'addome. Verso la tasca. verso la tasca. Ok, ed ora inspirate gonfiando la parte alta sinistra del torace, espirate, poi inspirate gonfiando la parte destra bassa dell'addome e continuate gonfiando ogni volta che inspirate la parte alta sinistra del torace o la parte bassa destra dell'addome, come se fosse un palloncino di quelli lunghi che si compra al Luna Park, e una volta si preme da una parte e si gonfia l'altra, e poi si preme dall'altra parte e si gonfia quella che prima non era gonfiata. Riposate un po', dopodiché invertiamo la posizione delle mani. Dopo che avete osservato come siete appoggiate a terra supine, se c'è qualche cambiamento, ruotate in fuori i piedi e piegate le gambe una alla volta. Questa volta mettete la mano destra sulla parte alta del torace, la mano sinistra sulla parte bassa sinistra dell'addome. Inspirate gonfiando la parte alta destra del torace, lasciate andare aspirando, e poi inspirate gonfiando la parte sinistra bassa dell'addome. Osservate come tenete le dita dei piedi, delle dita dei piedi sparate verso il soffitto. E osservate se da questa parte il movimento vi risulta più facile, diverso dall'altra parte o meno facile. Lasciate andare, allungate le gambe e le braccia. Ora ripiegate le gambe una alla volta, se potete sempre ruotando in fuori il piede, piede e ginocchia alla larghezza del bacino, talloni ben indietro, sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio. Ora mettete una mano sul torace e una mano sull'addome. Quella che volete. E adesso inspirate gonfiando l'addome verso il soffitto e verso il pavimento pelvico, espirate e poi inspirate gonfiando il torace verso il sul dito, e poi espirate, e di nuovo inspirate, gonfiando e spingendo l'addome verso il soffitto, e continuate a passare da inspirazione, espirazione in basso, e inspirazione, espirazione in alto. Lasciate andare, arrotolate su un fianco, quello sul quale vi trovate meglio, potete appoggiare la testa sul braccio del lato sul quale siete girate allungato, appoggiate o la testa, scusate, appoggiate la testa o sul braccio o su un cuscino, non su entrambi. Chi fa fatica a tenere appoggiata la testa sul braccio, l'appoggi sul cuscino. Gambe ben piegate, in modo da essere messe come a seggiolina, quindi ci sono 90 gradi tra tronco e coscia. La coscia è come se fosse il sedile. Le ginocchia sono più in su, Sara, più verso di te le ginocchia, non indietro, tira le ginocchia verso la pancia, ok? E adesso 90 gradi tra coscia e gamba propriamente detta, che è la parte bassa che va dal ginocchio al piede, ok? Adesso siete sul fianco e mettete la mano del braccio che è sopra, quindi non di quello ovviamente su quale avete appoggiato la testa, sulla pancia, sull'addome, davanti, in modo come da sorreggerlo. E quando inspirate, gonfiatelo. E quando espirate, lasciate andare. E continuate inspirando, gonfiando l'addome, ed espirando, lasciando andare. Osservate se potete tenere il braccio, la mano, la spalla morbide, o se vi irrigidite. Bene, rimanete su questo lato che avete scelto, e questa volta appoggiate la mano che avete appena messo sull'addome, appoggiate la stessa mano con il dorso dietro sulla schiena, più o meno a livello della parte lombare. Attenzione che è parte lombare più o meno verso la cintura, tra la cintura e l'osso sacro, non l'osso sacro, parte lombare. E inspirate spingendo indietro quella parte. Quindi inspirate, spingete indietro con la parte più o meno lombare, la mano, il dorso della mano, Lasciate andare respirando e poi di nuovo inspirate spingendo indietro. Non è Sara quella mano lì, è l'altra. Perfetto. Rotolate supine, vi riposate, quindi pancia in su, braccia lungo i fianchi, gambe allungate, vi fermate. Okay. Provo ad andare a vedere se è ora. Grazie. Se presto torna. Se presto torna. E adesso vi girate sull'altro fianco. E mettete la testa sempre appoggiata sul braccio allungato, non piegato, mi raccomando, allungato, morbido. Se avete fastidio alla spalla, al braccio, mettete un cuscino. L'importante è che il collo sia sul prolungamento della colonna vertebrale e appoggiate l'altra mano sull'addome e inspirate gonfiandolo. Osservando cosa succede nell'addome, nella schiena, nel bacino, nella colonna vertebrale, nel torace. E poi appoggiate il dorso della stessa mano dietro più o meno, dietro la schiena, sulla schiena, a livello della parte lombare e inspirate spingendo indietro la mano. Osservate come tenete la bocca, la spalla e arrotolate di nuovo supine. Osservate l'appoggio a terra. E poi di nuovo piegate le gambe, mettete una mano sul torace e una sull'addome . Cambiamo rispetto a prima, ora il movimento è questo: inspirate, trattenete il respiro e in apnea alternativamente gonfiate, buttate in fuori una volta la pancia, una volta il torace, una volta la pancia, 3-4 volte finché non ce la fate più, espirate, vi riposate un attimo, dopodiché di nuovo inspirate, trattenete l'aria e con l'aria trattenuta buttate in fuori una volta la pancia, torace, lasciate andare, respirate e poi lo rifate. Il movimento di buttare in fuori trattenendo in apnea l'aria al pancia, torace è quello che vi dicevo prima di un palloncino preso in una parte dove premendo una parte si gonfia l'altra, premendo l'altra parte si gonfia quest'altra. Quindi una specie di massaggio visceri in su e in giù e man mano che vi viene potete anche aumentare la velocità. E potete anche fermarvi, riposarvi, cambiare l'appoggio delle mani, invertirle. E man mano che lo fate, osservate se solo un movimento interno dell'addome o se per caso permettete di far passare il movimento anche al bacino e alla schiena. Bocca morbida. Lasciate andare e allungate le gambe. Ora ritornate sul fianco che vi piace di più, quale è stato più comode, gambe piegate a seggiolina, il corpo a seggiolina, la testa appoggiata sul braccio che è allungato, appoggiate la mano del braccio che è sopra, questa volta, avvolgete con la mano e il braccio che è sopra la testa in modo da prendere con la mano l'orecchio. Se per esempio siete sul lato sinistro, l'orecchio sinistro. Se siete sul lato destro, l'orecchio destro. Quindi avvolgete col braccio e la mano la testa in modo da prendere l'orecchio opposto. E in quella posizione lentamente sollevate un po' di volte la testa con la mano e il braccio da terra. E poi la riappoggiate. E osservate come lo fate. Vi accorgerete che probabilmente per rendere il movimento ancora più facile non solo sollevate la testa e quindi sentirete che il lato sul quale siete sdraiate si appoggia a terra, ma forse potete permettere anche al bacino di muoversi verso la testa. Quindi l'anca del braccio che avvolge la testa si muove verso la testa mentre sollevate la testa. In altre parole, si accorcia il lato sul quale non siete sdraiate e si allunga l'altro. E riposate un attimo. Dopodiché, riavvolgendo col braccio, la mano, la testa, prendendo l'orecchio opposto come avete appena fatto, sollevate la testa, rimanete con la testa sollevata e rimanendo con la testa sollevata, inspirate, trattenete il respiro e in apnea, come abbiamo fatto supini, alternativamente buttate in fuori la pancia al torace, la pancia al torace, e quando non ce la fate, dopo due o tre volte, non ce la fate più, riappoggiate la testa, vi riposate e poi lo rifate. Ovviamente, essendo la parte sinistra, se siete girate a sinistra, o la destra, se siete girate a destra, del torace appoggiato a terra, questo muovere avanti, indietro, in dentro e in fuori la pancia, quindi il torace, è un po' più complesso perché questa parte non si è abituata a tenerla ferma e a muovere altre parti che invece di solito tenete ferme. Dopodiché vi riposate e vi mettete supine. Dopodiché arrotolate sull'altro lato. Avvolgete col braccio la testa, come abbiamo fatto, in modo da prendere l'orecchio a posto, sollevate varie volte la testa e la riappoggiate, lasciando che si muova tutto quanto, come abbiamo visto, bacino incluso. Ed ora rimanete con la testa sollevata, inspirate, trattenete l'aria e alternativamente gonfiate la pancia al torace, la pancia al torace, e quando non ce la fate più, riappoggiate la testa e poi lo rifate. Bene, lasciate andare, tornate supine, vi riposate un secondo, dopodiché ripiegate le gambe, rimettete una mano sul torace, una sull'addome, rifate il movimento fatto prima, inspirate, trattenete l'aria, e alternativamente in apnea buttate in fuori una parte e l'altra, una parte e l'altra. Osservate come viene adesso. Lasciate andare ed emettete a quattro zampe per il gran finale. Quattro zampe, piedi e ginocchia larghi come il bacino, appoggiate le mani a terra e il vertice della testa, la sommità del capo sul pavimento e piano piano inspirate gonfiando una volta la pancia e una volta il torace. E sentirete che quando fate questo movimento il bacino va avanti e indietro, la schiena si incurva e si inarca e lasciate che l'addome stia a penzoloni, che caschi verso terra. Ok, adesso fate la stessa cosa, ma inspirate, trattenete l'aria e alternativamente gonfiate la pancia, il torace, la pancia, il torace. E quindi sentirete che la schiena va avanti e indietro. Il bacino va avanti e indietro. La testa rotola avanti e indietro. Ok, lasciate andare, vi sdraiate supine. E cominciamo ad osservare gli appoggi partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. Quindi osservate come appoggiano, come sono messi i piedi, come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino. Destra, sinistra e infine come è messa tutta la colonna vertebrale, la schiena partendo dal coccige, l'osso sacro, osservando se l'arco lombare è sceso, come sono messe le vertebre toraciche, le costole, le scapole, il collo, la testa, la bocca. E infine come sono messe le spalle e le braccia. E quando siete pronte, lentamente rotolate su un fianco, rimanete sedute un attimo e poi vi alzate. E quando siete in piedi osservate prima come state ferme in piedi e poi camminate e osservate com'è il cammino.